è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara di Giuseppe Cruciani. il numero verde, sms 349-238-6666, la zanzara at radio24.it per scriverci le vostre mail, TG2. Il presidente della Camera Fini torna sul rapporto fra poteri delle Camere e l'esecutivo. Serve, dice, un maggiore equilibrio, diritto dovere del Parlamento discutere e intervenire. 10 morti e 30 feriti in un attentato a Herat vicino alla base italiana, nessun nostro militare coinvolto. La NATO, sosterremo gli afghani sino a che sarà necessario. Strage di Bologna, torno libero dopo 26 anni Valerio Fioravanti condannato all'ergastolo con la moglie Francesca Mambro, pena scontata. I familiari delle vittime, fu un errore, la libertà vigilata. La provincia di Venezia schiera le sue guardie contro i Cucumpra, prime pattuglie da oggi sul litorale per far fronte al commercio abusivo, ma non mancano le polemiche. Massa di nuovo a casa in Brasile, mi sento meglio, non ricordo nulla, dice nella sua prima intervista dopo l'incidente, spero di tornare al più presto alla guida di una Ferrari. Avete sentito? Lotta a Venezia contro i Vucumpra. Da quanto tempo sentiamo queste frasi? Ha detto adesso addirittura la provincia manda degli agenti di polizia locale, forse arriverà addirittura l'esercito. E poi tutto ricomincerà come prima. Sentiamo Studio Aperto. Mistero Jackson, il mito senza fine, 40 giorni dopo la sua morte spunta una foto shock, la stanza da letto del re del pop, qui l'iniezione fatale che gli ha tolto la vita, l'arresto cardiaco che l'ha ucciso, i disperati tentativi di rianimarlo, sulla scena ancora i segni della tragedia che ha commosso il mondo. L'estate di Viaggio Odissea, furibondi, i 450 passeggeri del traghetto Trapani-Cagliari partiti di notte si sono ritrovati la mattina nel porto siciliano. La nave era rientrata per un guasto. Valanga di ricorsi per l'overbooking di Fiumicino e i prigionieri del passante di Mestre. Atterraggio d'emergenza a Miami, 35 feriti, 4 gravi per turbolenze in volo. Guerra agli abusivi, schierati da domani a Venezia 90 soldati contro i Vucumpra e sulle spiagge del Veneto ad aiutare i vigili nei controlli arrivano le pattuglie della polizia provinciale. Strage di Bologna, Valerio Fioravanti, uno dei tre colpevoli dell'attentato che provocò 80 morti, a tutti gli effetti un uomo libero, ci sono spazi, dice, per lavorare ad una nuova indagine sulla bomba alla stazione, protestano i familiari delle vittime. È già fuori dal carcere lo spacciatore arrestato sabato nella Movida romana. Per impedirne l'arresto, un branco di ragazzi assaltò una pattuglia di carabinieri, malmenandone tre. In casa nascondeva 100 dosi di erba, ma non ha precedenti penali. Per il giudice deve tornare libero. Ritorni dall'inferno, Eleonora era rimasta... Bene, 18.36, 800 24 00 24, il passante di Mestre. Eppure era stato inaugurato in questo modo. Questa è una polemica molto facile, certamente, quella sul passante di Mestre, far sentire le voci dell'inaugurazione e nello stesso tempo quello che è accaduto sabato scorso. Sentiamo. Ma l'apertura del passante segna un'epoca, cambierà il Veneto e cambierà in meglio. È stato 8 milioni di auto in movimento, situazioni critiche da nord a sud, a lungo chiuso il passante di Mestre. Un'opera davvero paradigmatica, da prendere ad esempio per ciò che ci aspetta e che dobbiamo fare. Io ho fatto 900 chilometri, lo schifo l'ho trovato qua, qua negli ultimi 100 chilometri. Io devo pagare l'autostrada, una costata mi deve pagare a me, che sono da 6 ore che sto sotto il sole. Presidente, siamo ad una settimana dall'inaugurazione del passante. È il giorno più bello della mia vita, sarà il giorno più bello della mia vita, almeno della vita di... amministratore. Esodo da incubo, risolto solo nella notte il grande ingorgo che ha bloccato il passante di Mestre, aperto un'inchiesta sotto accusa la mancata informazione. Caos. Avete sentito soprattutto la voce del governatore Galan che se la prende con i giornalisti che hanno parlato di disastro del passante di Mestre, anche con l'ANAS che ha promosso un'ispezione per cercare di capire quello che avviene. Secondo Galan, l'ANAS è un ente inutile, sono notizie proprio degli ultimi minuti. 800 24 00 20 4 per chiamarci, soprattutto per capire, secondo voi, se è normale che accada una cosa di questo tipo, da cosa dipende, da una scarsa organizzazione nel giorno di punta, oppure dal fatto che spesso quando si concepiscono certe opere in Italia non si pensa ad una struttura unitaria, per cui ci sono 5 corsie da una parte e 2 dall'altra. Inevitabile poi che si creino delle situazioni da imbuto. Dove andiamo? Andiamo a sentire il sindaco di Venezia Cacciari. Il sindaco di Venezia Cacciari che dice: il problema dei Vucumpra è in parte irrisolvibile. La possibilità di eliminare questo fenomeno è molto ridotta. Certamente non l'ho risolto, come non l'ha risolto nessuno in nessun paese al mondo dove ci sono milioni e milioni di turisti. Certamente l'ho affrontato insieme al prefetto, insieme alla polizia, insieme ai carabinieri, eccetera, eccetera, e con risultati che stanno lì, davanti agli occhi di tutti, e che sono puramente contabilizzabili. Dopodiché è chiaro che in una città come Venezia o come Firenze la pressione di questo commercio abusivo è immensa. È chiaro che costoro non vanno a smerciare nel paesello del mezzogiorno, vengono dove ci sono milioni e milioni di turisti. Ecco, secondo me il problema dei Vucumpra, dei venditori abusivi, eccetera, non è assolutamente irrisolvibile. Solo in Italia si può pensare una cosa di questo tipo. Per carità, ci vuole costanza, ci vuole presenza continua sul territorio, ma non è vero che è irrisolvibile. Ancora Cacciari sulle polemiche di queste ore, la polizia provinciale e addirittura l'esercito contro i venditori abusivi. È evidente che per operazioni di ordine pubblico da vigili urbani o in più da polizia normale, l'esercito, come dire, è sovradimensionato. Comunque, se si intende usare l'esercito anche per operazioni di questo genere, nulla questo. Basta, è chiaro che il coordinamento di queste operazioni rimanga saldamente in mano al Comitato per l'Ordine Pubblico, e cioè al prefetto. E quindi se vengono rinforzi, ben vengano. Nulla questione. E dopodiché, se questo paese magari qualche volta si mettesse a ragionare dei veri problemi che deve affrontare invece che di queste cose, non sarebbe neanche male, ma insomma non importa. Sarebbe certamente meglio, ha ragione Cacciari su questo, e andiamo a sentire i fischi, perché poi alla fine è sempre la stessa cosa. Allora evidenziamo, vi facciamo ascoltare i fischi al ministro Bondi alla commemorazione della strage di Bologna, perché ogni anno arriva un ministro quando c'è al governo il centrodestra e viene fischiato, è una cosa normale. Sentiamo. Io sono un democratico quanto quelli che in questo momento fischiano, e vi pregherei di permettermi, anche per non tradire il significato di questa commemorazione, di continuare a leggere il mio discorso. E poi naturalmente i giudizi, i commenti, i fischi antidemocratici, eccetera, eccetera. Un copione ormai rituale, tanto che ci sono delle persone che vanno apposta in piazza durante la commemorazione, mettono una telecamera e poi urlano improperi di tutti i tipi. Sentirete nei confronti del ministro di turno, qualche anno fa c'era Rotondi, ricordo, quest'anno Bondi, e succede questo, e per cui le persone ne dicono di tutti i colori e poi magari spediscono il filmato nel blog di Beppe Grillo. Cazzo di idiota! Eppure l'Italia è anche il paese che, nonostante tutto, nonostante le divisioni ideologiche, ha degli stronzi come te! Trovare sempre le forze, le energie. Cagliare, ma basta! Vabbè, insomma, l'atmosfera, avete sentito, il modo di fare è questo: prendere una telecamera, andare sotto il palco, urlare e mandare poi un filmato, magari su YouTube, così ha più risalto, ha più evidenza. 800 24 00 24. A proposito di Grillo, annuncia la creazione di un movimento di liberazione nazionale. Una frase, un nome che ricorda la liberazione dal fascismo. Fischia il vento, urla la bufera. D'altra parte, spesso i discorsi di Grillo sono appunto quelli di liberazione da qualcosa. Dobbiamo combattere con un altro tipo di fascismo, che c'è il fascismo dell'informazione, un fascismo che non lo identifichi, un fascismo che non lo vedi, che ti sorride, che ti fa vedere delle fighe col culo così, il fascismo che ti prende in giro. È questo fascismo, che è molto più difficile da vedere. Questo Grillo, non bisogna mai dimenticare che recentemente Grillo ha trasformato, ha creato una nuova classifica, anzi una nuova categoria della scienza della politica, la dittatura democratica. Sarà neanche favorevole alla dittatura, se fosse però, ecco, di chiunque avesse libero accesso alla dittatura. La democrazia sta fallendo. Stiamo cercando qualche altro sistema e non c'è. La dittatura però democratica, dal basso, potrebbe essere meravigliosa. Se tutti avessero la possibilità di accedere per fare il dittatore, io sarei d'accordo. Avete sentito? Sì, bisogna sempre tenere presente questa nuova categoria della dittatura di chiunque, dunque della dittatura democratica. Questo Beppe Grillo, che ha trasformato la dottrina della scienza della politica, e dunque si stanno anche riscrivendo i libri. 800 24 00 24, il nostro predicatore preferito di questi tempi. E Berlusconi è forse migliore di un mafioso? Forse perché usa la legge fatta su misura del suo onnipotente egoismo? Lui crea, distrugge, distrugge, crea. La rete della vita se la fa a modo suo. Io voglio che ora voi vi alziate. Voglio che vi alziate proprio adesso. E andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Don Giorgio De Capitani, che è tornato a tuonare contro il regime, contro Berlusconi, anche nell'omelia di questo weekend, da quello che raccontano i giornali. D'altra parte ormai è un meccanismo infernale, è finito sui quotidiani, su internet, viene intervistato e dunque la ruota continua a girare. Dove andiamo? Un ascoltatore da Treviso prima. Andiamo... no, non c'è più. E allora Massimo Fini, direttore della Voce del Ribelle, ben ritrovato, buonasera Fini, come sta? Buonasera, bene, allo Stato, come direbbe Di Pietro. Senta, ho letto da qualche parte che lei sostiene che il Superenalotto, per cui tutti impazziscono, è una truffa. Ma non solo il Superenalotto, tutte le lotterie di Stato sono una truffa, perché naturalmente chi vince prende una parte e il resto va allo Stato, insomma, e quindi le possibilità sono mie, è una specie di supertassa, insomma. Però la Chiesa propone un alto prelato, non diciamo, la Chiesa sì. Propone un tetto per i premi, altrimenti insomma è immorale, si creano false aspettative, il denaro, il solito discorso. Il discorso, solo che mi pare che la Chiesa si fissi su un dettaglio. Il problema è che questa società è diciamo organizzata sul denaro, sulla ricchezza, sul fatto che chi è ricco è eletto dagli dèi e chi è povero è un paria, è ben più complesso, grave e corposo del Superenalotto, insomma. E poi secondo me, una volta che sono fissate le regole, non si possono cambiare, perché il gioco è fatto di regole, insomma. E quindi se il tetto è arrivato a quello, deve rimanere quello o aumentare. Lei gioca? Credo di no. No, io gioco giocavo a giochi a poker. Cioè Superenalotto? Il Superenalotto manco per niente. No. Superenalotto, Enalotto e cose di questo genere, no, giochi alla pari con amici, dove non c'è la tassa statale, insomma. Naturalmente, poi sono anche un pochino più umani, perché hai degli avversari umani di fronte. Ho letto un bellissimo libro di Zoya, la scomparsa del prossimo, cioè dove noi siamo sempre più a che fare con macchine, numeri e cose, molto meno con uomini, insomma. E dunque il poker è una cosa, diciamo, il Superenalotto è un'altra, e su questo non c'è dubbio. Però le volevo chiedere, una truffa per modo di dire, naturalmente, perché poi uno ha la possibilità di non giocare, una tassa per modo di dire, perché non è automatica. Beh, certamente sfrutta naturalmente il sogno. Il sogno, un sogno che in questo l'uomo ha sempre sognato, grazie a Dio, ma che diciamo nella modernità diventa un sogno solo semplicemente di denaro e di ricchezza, insomma questa è la novità. E siccome appunto il povero oggi è un paria, se pensiamo agli anni 50 ancora in Italia, non si dubitava che si potesse essere poveri e felici. Poi divenne poveri ma felici, con questa, poveri ma belli, non so, qualcuno ricorderà il film, con questa congiunzione avversativa che già dicevamo, sì, molto. Sì. Adesso chi è povero è infelice, senza sé e senza ma, punto e basta. E allora è chiaro che il tentativo molto improbabile, ma di raggiungere la ricchezza in qualche modo spinge la gente a giocare. Poi naturalmente si gioca quando la situazione è nera, insomma. Ecco, ma la parola truffa non è un po' esagerata, truffa dello Stato? In fin dei conti siamo sempre noi, no? Che ci spingiamo verso quella ricevitoria, verso quella macchinetta per cercare di sognare qualcosa che è francamente impossibile. Qualcuno ha detto è come avere tre figlie femmine e tutte e tre, ho letto, tutte e tre ballerine, non so dove, una cosa di questo tipo. No, ma vede, lo Stato si arroga, fra le tante cose che si arroga il diritto del gioco d'azzardo, per cui ci sono i casinò, le cose eccetera, dove appunto paghi tassa, e invece proibisce il gioco d'azzardo fatto fra cittadini, quindi in questo senso io lo ritengo una truffa, più che sì una truffa, o comunque una delle tante violenze che lo Stato ci inflitte. Insomma, lo Stato monopolizza tutta una serie di cose che in realtà riguarderebbero il cittadino e basta. Del resto vediamo che mai come in quest'epoca liberale c'è tutta una serie di divieti fra i più incredibili, insomma. L'alcol a Milano per gli under 16. È diventato il nemico numero Che ne pensa lei di questa discussione infinita sul divieto della Moratti per gli under 16? Ma e ha detto tutto, che... e ha detto tutto con questo male. O no? No, il fatto che si va a sommare a tutta una serie di divieti, per cui non si può più bere, non si può più fumare, a meno che non si sia il presidente del Consiglio, non si può più andare a puttane. Cioè tutta una serie di cose che in questa, cioè di divieti che non dovrebbero esistere in una società liberale. Stuart Mill, che insomma tutto affermato è uno dei pari nobili della liberal democrazia, dice che non solo bisogna difendersi dall'eccesso di leggi, ma dalla comune sopinio, insomma. Adesso questo divieto del vino, no, dopo una certa ora, che è stato posto a Firenze, per cui nei baracchini, in queste cose qui, il vino è una cosa della tradizione italiana, tu non puoi mangiare lampredotto e non bere vino. Beh, quello però è stato revocato, è intervenuta la correzione del sindaco pragmatico Renzi su questo. Beh sì, meno male in questo caso. Poi il divieto del fumo nei locali pubblici all'interno, non è che c'è il divieto in assoluto di fumare. Insomma, ogni cosa è diversa dall'altra. È vero che siamo in un momento in cui i sindaci se ne inventano di tutti i colori, soprattutto insomma, in estate. Sono 546 divieti diversi, fra cui ci sono quello che uno non può passeggiare in un parco la sera, mi pare che questo sia vero, una voghera. Sì, a Pordenone. Sì, se sei in più di tre persone. Ora il fascismo aveva posto la dunata a cinque persone. Insomma, mi pare a Eraclea non si possono, sulla spiaggia non si possono fare i castelli di sabbia. Cioè, mi pare che stiamo andando verso direzioni, ripeto, sembra, si può ridere sopra, ma che in realtà limitano sempre di più la libertà dell'individuo, e questo è abbastanza sorprendente, visto che questa è l'epoca dello Stato liberale, per cui tutte le libertà sono conculcate, tranne una sola, naturalmente, quella economica, quella guai al mondo, quella deve... Cioè, laddove forse bisognerebbe mettere qualche paletto e qualche limite, invece lì è illimitata. Va bene, grazie, buona serata. Grazie a Massimo Fini, 18:54. Andiamo a Treviso da Angelo. Buonasera. Buonasera, Cruciani. Prego. Io volevo parlare del discorso del passante, perché io sono uno che lo percorre ogni giorno per lavoro e lavoro anche in un'azienda di trasporti, per cui abbiamo i camion che lo percorrono. Io devo dire che forse Galandi, là delle parole roboanti che ha usato, ha ragione ad essere fiero di questa opera, non tanto per importante per il Veneto quanto per tutta l'economia del nostro paese. Io da quando è stato realizzato, un po' anche perché, a dire la verità, è diminuito il traffico perché c'è la crisi economica, ma non ho più fatto una coda nei giorni normali. Piuttosto direi, e su questo mi soffermerei, il fatto che sabato 1 agosto fosse una giornata da bollino nero, non rosso, non ha comunque dissuaso nessuno dal partire tutti il 1 di agosto, e ci sarebbe anche da interrogarsi sulle modalità che nel nostro paese è mai attuata di scaglionamento delle ferie, per cui tutti 10 milioni, 20 milioni di italiani devono muoversi il 1 di agosto, ed è chiaro che non basterebbero 10 corsie autostradali deserti per assorbire il traffico che c'era. No, lei ha perfettamente ragione, Angelo. Detto questo, anche se si scaglionassero le ferie, eccetera, alcune cose sono inevitabili. Insomma, in grandi città europee, non solo europee, si convive con le code, gli ingorghi del fine settimana. Alcune cose sono davvero ineliminabili. Certamente si possono sciogliere, si possono ammorbidire, quello che vogliamo, si possono migliorare e va bene, ma alcuni ingorghi in certi momenti della giornata o dell'anno sono inevitabili, o sbaglio, Angelo? Insomma, è così, non c'è niente da fare. È come parlare del nulla, o sbaglio? No, ma io penso sì, ma infatti, cioè, voglio dire, alla fine qualche informazione di più poteva essere data, forse la quello è un altro discorso. Certamente la deviazione sulla tangenziale, sulla vecchia tangenziale, poteva essere fatta meglio, tutto poteva sì, essere organizzato. Ma manca magari un autogrill ancora sul percorso dei 34 km, ma per carità, però mi pare che questo tentativo sia un po' più di ridicolizzare un'opera che invece è stata un'opera molto importante, di cui Galan ha anche ragione di andarne fiero, ma non perché Veneto, perché ha fatto un'opera che... Ah no, ma assolutamente, in poco tempo anche. Alberto Damià, poco tempo di lavori, non dal concepimento, lì sono passati 30 anni, più di 30 anni. Alberto da Milano. Sì, buonasera. Volevo sempre commentare in merito a questa storia. È vero che sono pochi giorni all'anno in cui c'è il grande esodo, eccetera. Però è vero anche che le cosiddette autorità queste cose qui dovrebbero saperle, quindi qualche mezzo di informazione preventiva o di deviazione o di assistenza dovrebbero darla. È come l'uscita di Milano oggi, dove hanno avviato i lavori di manutenzione dell'uscita dell'autostrada dei Laghi e non c'è in giro un vigile a regolare il caotico ingorgo che c'è. Cosa bisogna fare a livello di informazione, di cartelli, mandare le persone a un certo punto sul passante, sulla vecchia... In giro qualche vigile. No, ma a parte Milano, adesso è una situazione che non conosco, per quello che riguarda il passante di Mestre, secondo lei bisognava avvertire prima che si poteva passare sulla vecchia tangenziale? Magari con quegli inutili cartelli segnalerici avvertire che c'erano strade alternative. Forse. La ringrazio. Franco da Parma, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. No, ho sentito, non avevo sentito ancora niente di oggi, ho sentito le notizie da lei. Due mi hanno colpito perché evidenziano una distonia tipica di questo paese non normale. Da una parte abbiamo l'intervento della pubblica forza, non escluso l'esercito, per risolvere il problema dei Vucumpà a Venezia. Io credo che l'Italia abbia ben altri problemi che non i Vucumpà per far intervenire eventualmente l'esercito, ma a prescindere da questo diamo l'impressione di un paese legalista, duro e puro, pronto a rintuzzare tutto ciò che non funziona. E dall'altra parte sento che Fioravanti è in libertà, non è, pur essendo un pluriergastolano. Per l'amor di Dio, sono due contesti assolutamente diversi. Se Fioravanti ha pagato il suo debito con la giustizia e in applicazione delle norme, ci sta anche che sia fuori. Poi moralmente posso avere le mie riserve, ma di fatto è un'applicazione di una norma. Ma non rileva anche lei una distonia comportamentale? Beh, assolutamente sì, Franco, adesso il paragone con la vicenda di Vucumpà è un po' ardito, però le norme sono le norme, è vero, ha passato più di 20 anni in carcere, fa impressione, certo, che un pluriergastolano sia libero dopo oltre 20 anni passati in galera, è stato arrestato dell'81, e che poi inizi, apra un dibattito sulla strage di Bologna, che è uno degli ergastoli che ha preso. Ma dove possiamo fare e non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura ma l'uomo. Dov'è? È nella tezza, è più grave di queste piaghe che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere e ci vanno nemici, famiglia contro famiglia. Johnny Stecchino, il traffico di Palermo. 800 24 00 24. Diego da Ferrara, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, grazie per farmi intervenire ancora sull'argomento del passante. Sì. Io faccio abbastanza spesso il passante, adesso sarà un mesetto che non lo faccio, però devo dire che è molto migliorativa la cosa. Prima si dava di default un'ora di coda praticamente qualsiasi giorno, qualsiasi ora passassi. Quindi 99% dei giorni tutto perfetto, grande opera. La seconda volta che lo vedi incominci a pensare di essere dentro un tunnel di cemento. Un po' l'abbiamo cominciato a chiamare il Wild West, perché a 130 all'ora bisogna stare sulla prima corsia di destra, se no le macchine ti passano sopra. È vero che non c'è una stazione di servizio, una piazzola, eccetera. E il problema maggiore è che ancora, usciti dal passante di Mestre, si trova una piccola chicane, perché si vedono ancora che ci sono dei lavori da finire, una chicane per evitare quelli che erano i caselli dell'uscita del passante di Mestre. Quindi lo spazio, volendo, ci sarebbe, secondo me i lavori devono essere ancora finiti. E questa piccola chicane, io la chiamo chicane perché sembra proprio tale, non è priva di lacune in fatto di sicurezza, e non è priva di lacune nel caso in cui, come abbiamo visto questo weekend, ci sono stati milioni di vacanzieri. Secondo me il problema è più da imputare magari al gregge di pecore, che visto uno che entra in quella direzione tutti entrano, e anche le indicazioni all'ingresso non sono sempre molto esplicative, perché chi vuole andare verso Trieste non capisce che potrebbe comunque passare anche per Venezia. Per la vecchia tangenziale. Bene, la ringrazio. Roberto, provincia di Treviso, buonasera. Buonasera Cruciani e buonasera ai suoi ascoltatori. Beh, anche a Venezia abbiamo il ciaffico, no? In questo tempo di Lega Nord e di Lega Sud, dai, così ci consoliamo un po' anche noi. Volevo una sua riflessione. Siamo una democrazia matura allora a questo punto, cosa dice lei? Visto che le code diventano o di destra o di sinistra. Secondo me le code fanno parte del gioco. Naturalmente le vecchie code, quello sulla tangenziale, potevano essere evitate. Abbiamo visto che dopo tanti anni è arrivato il passante di Mestre. Quelle del primo agosto sul passante in parte si potevano correggere con un po' più di informazione, e però quando tante persone si mettono in viaggio alla fine è inutile, no? Ah, ecco, meno male. Allora che cos'è? Che ad agosto non c'è altro da dire, da scrivere, allora che parliamo delle... Allora ha ragione Galan, secondo lei, quando attacca la stampa dicendo che in Germania, per esempio, non succede questo, ci sono tanti ingorghi e non ci sono le telecamere, i giornalisti. Ha ragione il presidente del Veneto? Guardi Crociani, io sono di Conegliano e la faccio da una vita quella strada per lavoro, no? Come tutti quelli che ci vivono e ci lavorano, noi abbiamo guadagnato un'ora del nostro tempo e questo è un dato di fatto. E poi cosa facevamo allora? Due code da 16 km cada una? Sono cinque corsie che vanno in una strozzatura, la chicane, come ha detto l'intervento precedente, non ho sentito gli altri, e nel momento in cui c'erano le code qua ce n'erano già 9 a Trieste. Cioè, secondo me la matematica non è un'opinione, poi ripeto, se vogliamo le code o di destra o di sinistra ne possiamo parlare all'infinito, cosa ne pensa lei? Sì, no, la penso come lei. Senta cosa ha detto ieri Galan, notizie sul traffico automobilistico dalla Germania, un mio amico in viaggio in vacanza mi ha appena trasmesso una fotografia sul cellulare che documenta un grande blocco stradale in cui lui e la sua famiglia sono incappati lungo l'autostrada A3 verso Francoforte. Ore di attese, nessun caffè caldo della protezione civile. Mio amico Antonio Gesualdi mi dice di non aver visto nessun giornalista televisivo al lavoro, nessun inviato di qualche giornale in cerca di lamentele e bestemmie. Gli automobilisti fermi scendono dalla loro auto per fumare o per chiacchierare in paziente attesa che il viaggio possa riprendere la sua corsa ad ostacoli fra i lavori di molti cantieri. Da noi, invece, il blocco agostano, durato qualche ora lungo il passante di Mestre, che fu inaugurato da Berlusconi e da me, ha scatenato i media, servizi televisivi, paginate, articoli, interviste, chissà perché. Già chissà perché. Che dice Roberto? Ha ragione? Qua si parla di roba grossa, si parla di cultura. Ah no, ma guardi, questo qua è un problema serio, il modo in cui vengono affrontate le questioni quotidiane. Il modo in cui l'informazione presenta alcune situazioni. Per esempio, ho letto sul Corriere della Sera e anche altrove che c'è il flop del passante di Mestre. Io infatti mi sono francamente stupito di quello, no? Nel senso che appena tu trovi un po' di logica nelle cose, no? In un paese che a grande fatica cerca di trovare l'equilibrio tra destra e sinistra e non c'è l'onestà intellettuale di dire io la penso così e secondo me è così, io la penso colà e secondo me è colà e poi si lascia ai fatti dimostrare chi ha ragione, poi mi stupisco quando tutta la stampa va e la comunicazione va in un'unica direzione. Ripeto, il passante ha tre corsie, la tangenziale ne ha due che vanno comunque a confluire in due, con una chicane che poi diventano una e che a sua volta avevano delle code davanti. Cosa facevamo? Due code da 16? Allora era una coda democratica? Cioè, non lo so, veramente, io chiedo a lei, che è un protagonista dell'informazione, a che pro, a chi giova, cioè non c'è altro spazio in prima pagina, allora viene comoda la coda nel passante o c'è altro? No, ma io non credo che ci sia una congiura contro il presidente Galan, oppure una manovra dei media per parlare male di un'opera inaugurata da Berlusconi, ma voluta in realtà anche dai governi precedenti. C'è, come dice lei, c'è la volontà di... È il primo agosto, ci sono 32 chilometri di fila, che è comunque una situazione eccezionale, e allora il passante diventa un flop, in automatico. Roberto da Napoli, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera a lei, dottor Cruciani, grazie a lei e ai suoi collaboratori per avermi dato la possibilità di intervenire nella trasmissione. Volevo dire giusto due parole sul caso Fioravanti. Secondo me il fatto è questo, le leggi in Italia, e non secondo me, sono queste, però secondo me è proprio qua il problema, nasce proprio da questo. Lui ha scontato la sua pena per quello che è, ha pagato, però ripeto, è proprio quel problema secondo me, il fatto che ci sia da darsi una regolata con i nostri governatori, con chi ci governa, con i nostri rappresentanti al governo, di fare una seria riforma alle leggi in Italia, che non vanno. Ogni anno è l'anniversario di queste stragi, di questa strage soprattutto, si riparla poi sempre di queste situazioni. Ma cos'è che non va? Mi scusi, lei che cos'è che la scandalizza? Il fatto che Fioravanti, pure il Gastolano, sia in libertà? Ma non è questo il fatto, non mi scandalizzo ormai, non mai credo che ci sia poco da scandalizzarsi in Italia, non è questo il problema principale. Il problema è che credo che non sia giusto una cosa del genere, non sia giusto. Ma cos'è che non è giusto? Non ho capito, Roberto. Il fatto che questa persona sia fuori, il signor Fioravanti sia fuori, sia libero e vada in giro a fare quello che fa. Va bene, la ringrazio. Daniele da Pescara, buonasera. Sì, salve, buonasera dottor Cruciani, la ringrazio per il tempo di disposizione. Una considerazione abbastanza ovvia, però penso sia il caso di farla, per quanto riguarda il monito della Chiesa sul premio del Superenalotto. Una volta tanto devo dire che da persona trentenne, che è nata con una cultura abbastanza laica, quindi che mal sopporta determinate ingerenze della Chiesa, questa volta non posso che fare un applauso. Considero un premio così elevato impegnativo per chiunque in caso di vittoria. Per cui penso che cominci ad essere anche una giusta osservazione quella di ripartire oltre un certo tetto tutto quello che effettivamente concorre al premio. Già la notizia di poco fa di un comune, parliamo di un'amministrazione pubblica, che decide per assurdo di concorrere al Superenalotto pur di cancellare i propri debiti è abbastanza sintomatica dell'importo di cui stiamo parlando. Sì, Daniele, francamente non riesco a capire il tenore, la sostanza di certe uscite, detto che non è la posizione certamente del Vaticano, che non è che si esprime ufficialmente la Conferenza Episcopale Italiana sul Superenalotto, la posizione di un prelato che magari parla anche a nome della Conferenza Episcopale Italiana, adesso non ricordo nemmeno chi sia, l'idea di porre un tetto, mi sembrano così delle uscite che poi non hanno senso, è evidente che un tetto non si può porre perché le regole del gioco sono quelle lì, punto. E poi se il denaro dà la testa, lasciamo decidere a chi lo vince legittimamente perché ha partecipato a un gioco. La ringrazio, Marco, provincia di Cuneo. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Buonasera. Senta, volevo intervenire sul tema, sui postumi del tema escort da Dario, Sony, eccetera, eccetera. Adesso c'è appunto sul tavolo questa battaglia fra Stato e Chiesa per la pillola RU486. Sì, battaglia tra Stato e Chiesa. In realtà c'è stata una decisione che è scientifica, se esatto, vuole, che è quella che io appoggio completamente, tecnica da parte dell'Agenzia del Farmaco, che ha ammesso in Italia, come succede in molti altri paesi, la pillola abortiva. Poi ci sarà un regolamento applicativo e pare che il governo voglia mettere dei paletti all'utilizzazione, al modo in cui verrà utilizzata questa pillola. La partita si gioca lì. Infatti è questo... Io vorrei che appunto fossimo tutti attenti su questo tema e su altri, che il governo, per farsi perdonare dal Vaticano un po' dei suoi tentennamenti etico-morali, non adesso non calasse, detto così brutalmente, non calasse troppo le braghe su queste altre cose. Quindi la RU, cioè, lei pensa che ci sia una sorta di scambio? Oggi c'era un titolo su un giornale, credo La Stampa. Paletti alla RU per farsi alla pillola abortiva per farsi perdonare il caso escort. Mi sembra un po' esagerato, però secondo lei potrebbe esserci un baratto di questo tipo? Potrebbe, benissimo, come un baratto su questo, come magari sui finanziamenti alle private, sulla ICI, cioè per riabilitarsi di fronte alla Chiesa. Berlusconi, secondo lei, può cedere su qualcosa? Sì, cioè io il rischio secondo me è quello, che per in cambio di un appoggio, comunque una non eccessiva condanna o che cosa, diciamo, si conceda al Vaticano di tutto di più. Quindi lì bisognerebbe stare attenti, perché anche la questione dell'ICI, che si era provato a togliere l'altra legislatura, poi a furor di popolo. Cioè, secondo lei bisogna stare attenti in questa fase ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa, le leggi che vengono fatte, perché Berlusconi potrebbe avere bisogno di riabilitarsi agli occhi dei vescovi. Va bene. Penso che ci sia da fare attenzione, poi magari non lo fa. No, ma raccolgo il suo suggerimento. Predicatori, a proposito di Chiesa. Io voglio che ora voi vi alziate. Voglio che vi alziate proprio adesso. E andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Don Giorgio dei Capitani, sentite come tuona, come continua a tuonare, naturalmente sempre di più adesso che ci sono i media tutti intorno, articoli, interviste contro Berlusconi. E Berlusconi è forse migliore di un mafioso? Forse perché usa la legge fatta su misura del suo onnipotente egoismo? Lui crea, distrugge, distrugge, crea. La rete della vita se la fa a modo suo. Giovanni da Verona, buonasera. Buonasera. Dica. Io intervengo sul passante di Mestre. Sì. Per dire che io lo percorro mediamente un 3-4 volte alla settimana e veramente ci ha cambiato la vita, perché prima erano code. O passavi alle 3 del mattino o alle 22 della notte, o altrimenti la coda non te la salvava nessuno. Allora, ho qualche capello grigio e code, per la verità ne ho sempre viste. Mi stupisce l'atteggiamento della stampa, che non si chiede: ma senza passanti messe quante sarebbero state lunghe quelle code che sono state? Perché è evidente che, partendo da Milano con le 4 corsie fino a Bergamo, via via poi le 3 corsie, alla fine si imbutisce tutto in 2 corsie, con l'autostrada, peraltro, che sente da Belluno, che si mette anche quella un po' prima a metà passante. È chiaro che lì si dovrà prevedere l'ampliamento dell'autostrada, ma perché la stampa, ad esempio, non mette in evidenza che c'è un altro pezzo di autostrada che porterebbe un po' più in là, un pezzo già fatto, quello che scende da Porto Gruaro, da Pordenone, mi chiedo scusa? Sì. Che c'è un pezzo di 20 chilometri che è bloccato da anni e anni e anni, che si è costretti a fare delle lunghissime code sulla statale. Ho capito Giovanni, lei pensa che, adesso tornando alla questione del passante, che la stampa, l'informazione, abbia dato addosso al passante parlando di flop, senza alcun motivo. La ringrazio. Mauro Tedeschini, direttore di Quattro Ruote. Salve, buonasera. Allora, ha ragione l'ascoltatore, in realtà è quello che dice anche il governatore Galan, che se l'è presa, oltre che con l'ANAS, ma questa è una questione che affronteremo più avanti, anche con la stampa, dicendo in Germania, per esempio, durante i periodi più caldi dell'esodo, succedono esattamente le stesse cose, ingorghi, però la gente la prende in maniera molto più filosofica, diciamo, ormai pensa che le code facciano parte del paesaggio quotidiano in alcuni giorni dell'anno, non ci sono tutte queste telecamere, tutte queste polemiche, soprattutto non si parla di flop per quello che riguarda un'opera che invece sta dando i suoi vantaggi. Lei che dice? Ma allora, direi che ha ragione e torto nello stesso tempo, perché è vero che le autostrade non possono essere progettate per una capienza, diciamo, del genere di quella che sarebbe necessaria nei giorni dell'esodo, quindi 3-4 weekend all'anno, questo è assolutamente pacifico, ed è vero che anche in Germania e in Austria ci sono stati dei maxi ingorghi, però nel caso del passante di Mestre purtroppo c'è stata una cattiva organizzazione che ha fatto sì che gli automobilisti che erano in coda sopportassero un disagio molto più grande di quello che in realtà si poteva far pesare loro, perché come è stato detto da più parti bastava far defluire un po' di questo traffico sulla tangenziale di Venezia e in questo modo le code sarebbero state non di 30 km ma sicuramente non di zero ma di 15-20, ma insomma la vita cambiava, ecco. E dunque la colpa, la responsabilità secondo lei di chi è? Di chi doveva avvertire? Chi doveva avvertire? Chi doveva far defluire il traffico sulla tangenziale, sulla vecchia tangenziale? Ma lì è successa una cosa un pochettino strana, nel senso che l'ANAS ha detto che avrebbe mandato gli ispettori, ma manda gli ispettori per verificare una mancanza che è stata commessa dall'ANAS stessa, perché se noi andiamo a vedere quel tratto di strada è gestito da questa azienda che si chiama CAV, che di fatto è un'emanazione dell'ANAS e quindi erano loro... Cioè lei dice il tratto di strada quello prima di mettersi nella tangenziale di Mestre? Esattamente. Allora, il passante di Mestre è un'opera di cui c'era necessità e che funziona benissimo per 11 mesi all'anno. Effettivamente in agosto c'è questo traffico straordinario che va soprattutto verso Trieste, quindi la Croazia, la Slovenia, le spiagge che sono subito dopo confine, e quindi lì si creano degli intasamenti. Però è anche vero che se una parte del traffico fosse stata dirottata sulla vecchia tangenziale di Venezia, per esempio di lì si potevano transitare tutte le macchine che invece andavano in direzione di Treviso, Belluno, diciamo Cortina, no? Si calcola che questo fosse almeno un 10-15% del traffico e comunque facendolo diluire in maniera più ordinata, come dicevo prima, si poteva avere non quel disastro che c'è stato, ma una coda sicuramente importante, ma un pochettino più gestibile, insomma. E quindi lì c'è stata una cattiva organizzazione che purtroppo ha messo in cattiva luce un'opera della quale invece sentivamo la mancanza e che io ho percorso 10 giorni fa, è un'opera assolutamente ben fatta e che serve allo scopo per cui era stata progettata. Dunque, da questo punto di vista, le sono sembrati esagerati alcuni titoli sui giornali di domenica che parlavano di flop del passante di Mestre, no, dell'imbuto? No, non c'è un flop del passante di Mestre. Vede, facciamo un altro esempio. Si sta facendo. Però alcuni giornali hanno titolato in questo modo. Sì, no, ma questo è vero, diciamo che in Italia forse c'è un pochettino di esagerazione e soprattutto secondo me c'è poi la mancanza di andare a vedere dopo, ad esempio, questa commissione d'inchiesta nominata dall'ANAS, che tipo di risultanze dà. Si va molto sull'immediato e si segue poco la vicenda, quando magari si potrebbe capire come poi ovviare per le prossime occasioni. No, come dicevo, è un pochettino, adesso si sta facendo la variante di Valico sulla Bologna-Firenze, che è un altro tratto incriminato, è come se aperta la variante tutti i veicoli, camion, macchine, fossero mandati sul tratto nuovo e si abbandonasse il tratto vecchio, sarebbe una follia. Quello che è successo lì a Venezia è stato un pochettino questo, quindi c'è stato un problema sì di grande traffico ma anche di cattiva organizzazione sulla quale bisogna intervenire subito, perché il prossimo weekend, quello dell'8-9 agosto, viene previsto come altrettanto diciamo di traffico come quello che abbiamo appena lasciato alle spalle. E il Codacons, che vuole un risarcimento di massa e addirittura potrebbe promuovere, dice, una class action, poi tutti cercano di cavalcare questa vicenda, no? Ma la class action purtroppo sappiamo che in Italia ancora non c'è, tra l'altro, un strumento giuridico veramente efficace. Lì ci sono alcuni precedenti di automobilisti che sono riusciti a spuntare cifre tipo 200 euro appunto per ingorghi che loro imputavano a cattiva organizzazione e non a cause oggettive del traffico. Quindi può anche essere che lì si riesca a spuntare qualche quattrino dall'ANAS, però sono cifre risibili rispetto al tempo che si spende. Secondo me sarebbe meglio che tutti noi, soprattutto i mezzi di informazione pressassero appunto l'ANAS, che poi è responsabile anche della Salerno-Reggio, che è l'altro buco nero della viabilità italiana, perché si intervenga in una maniera un pochettino più razionale e un po' più efficiente. Purtroppo devo dire a malincuore, dove ci sono le autostrade a pagamento l'organizzazione ahimè è sempre migliore, perché dove c'è l'ANAS purtroppo, mi dispiace, perché sicuramente ci saranno anche tecnici bravissimi che lavorano con l'applicazione, ma molto spesso si verificano casi come questi e che ci fanno pensare che purtroppo sarebbe meglio privatizzare anche quel tratto di strada lì del passante, insomma. Dunque lei dice che prima di imboccare il passante di Mestre la responsabilità dell'informazione è soprattutto dell'ANAS. Ma lì ci sono tre concessionarie che si intersecano, sì. No? E c'è la famosa Serenissima, poi c'è la Venezia Trieste, queste sono due concessionarie private, anche se poi nel capitale in realtà ci sono soprattutto degli enti locali, però dalle informazioni che abbiamo noi, ma che sono quelle che sono state rilasciate ufficialmente quando fu inaugurato il passante, la società che gestisce quel tratto in cui si è verificato il problema, che si chiama CAV, che credo che sia l'acronimo di Concessionarie Autostrade Venete, è quella che gestisce appunto il tratto incriminato, che è quello dove c'è stato il famoso imbuto. Poi è vero, come si dice, che il problema verrà risolto soprattutto quando la Venezia-Trieste diventerà tre corsie subito all'inizio e quindi non ci sarà l'imbuto che si è creato in questo caso. Però nella parte iniziale, all'imbocco, non all'imbocco diciamo a nord, nell'imbocco a sud del passante di Mestre, i responsabili, perché lì si è creata la situazione di disagio, no? Bisognava dirottare, come ha detto lei all'inizio, più persone. Lì è a cavallo allora fra la Serenissima e questa benedetta cava, appunto, cioè tutte e due, ma ovviamente insomma, quello che succede sempre, quando ci sono autostrade in cui ci sono più concessionarie che intervengono, è ovvio che ci deve essere una collaborazione fra queste, no? Perché altrimenti si creano dei pasticci assurdi, come si creò a suo tempo, mi ricordo, un incredibile ingorgo sull'autostrada dei Fiori, quella che porta in Francia dalla Liguria, proprio perché due concessionarie non si erano parlate fra di loro e quindi tutte queste macchine andavano senza che nessuno le avvisasse neanche sui famosi pannelli a messaggio variabile. E quindi qui c'è un problema di organizzazione che richiede una grande professionalità. Devo dire, in questo l'Autostrade per l'Italia, dopo aver fatto delle esperienze terribili, soprattutto sulla Bologna-Firenze, hanno imparato in questi ultimi periodi, secondo me stanno lavorando oggettivamente meglio, ecco, perché poi l'esperienza aiuta. Lì credo che l'ANAS non abbia questo tipo di professionalità, evidentemente se lo dovrà fare in fretta, perché altrimenti rischia degli altri bagni come quello di sabato. Bene, grazie, buona serata. Grazie a voi. Informazione dunque fondamentale, e poi quando ci si mette in marcia il primo agosto e si vuole per forza arrivare a destinazione entro il primo agosto, si possono sopportare anche 10 ore di fila. Mario da Roma, buonasera. Esattamente quello che avrei voluto dire io, anche perché esistono dei numeri verdi a disposizione degli utenti che, se fossero stati consultati, avrebbero dato delle informazioni in tempo reale sulla situazione del traffico. Allora, tutta questa cagnara che è stata messa in piedi a me puzza tanto di politico, cioè siccome Berlusconi qualche mese fa si è dato molto da fare per esaltare il discorso del passante di Mestre, secondo me è stata, volevo sapere cosa ne pensava lei, è stata colta l'occasione per fare un po' di casino. Tra l'altro io non so se, io non conosco quel tratto di autostrada, quel passante, se è a pagamento, se non lo è. No, è a pagamento, certo che è a pagamento. Ecco, allora non è che l'ingorgo si è creato pure per il casello, perché no, no, perché lì non ci sono caselli né in entrata né in uscita. E dopodiché, perché sa, pure questa del casello, io passo sempre da quelle parti quando ritorno dalla montagna e vedo, e vedevo sempre, quest'anno non l'ho viste, file di anche di 20-25 chilometri che si bloccavano poi all'uscita. E io mi domando sempre per quale strano motivo chi prende l'autostrada il sabato e la domenica non debba essere munito di telepass. Perché Mario, adesso la discussione si fa un po' più, certamente noi abbiamo, prima di abituarci a qualcosa di moderno e soprattutto di tecnologico, passa moltissimo tempo. Dino da Padova, buonasera. Sì, buonasera dottor Cruciani. Dica. Grazie dell'opportunità di esprimere opinioni e qualche fatto. Io volevo fare semplicemente un'annotazione su quello che aveva detto Massimo Fini, perché faccio l'imprenditore da più di 12 anni e non è vero che le libertà economiche sono tutte a disposizione di tutti i cittadini. Sì, ma il discorso di Massimo Fini è un po' filosofico, adesso non è il caso di riprendere questo tema, le libertà economiche, cosa è permesso, cosa non è permesso, se vuole lo affrontiamo, insomma mi sembra una cosa un po' così, un po' campata in aria, ecco. Perché, vede, assieme a tutte le cose che state dicendo, c'è da dire che anche nell'ambito economico funzionano i due pesi e due misure, funzionano quello che si dichiara a parole e quello che viene invece praticato, per cui ci si dichiara liberisti a parole e poi nei fatti si realizzano misure che sono protezionistiche, e questo è il problema di questo paese fondamentalmente, due pesi, due misure, per alcuni tutte le libertà di qualsiasi tipo, economiche e non, e per gli altri, pur avendo dichiarato che sia nel paese delle libertà, in realtà non è vero per niente, perché lei non riesce a fare il notaio se vuol fare il notaio, non riesce a fare il farmacista se vuol fare il farmacista, non riesce a fare il tassista se vuol fare il tassista, e nel mio caso, che faccio l'imprenditore nel mondo di internet, le posso garantire che esistono tutta una serie di balzelli di carattere medievale previsti da normative nazionali attraverso le quali lei viene impedito nel fare concorrenza e nel realizzare infrastrutture. Le faccio un esempio banalissimo: è stata imposta sulla posta elettronica certificata una norma che prevede che per fare il gestore di posta elettronica certificata uno debba avere un capitale sociale minimo di 1 milione di euro. Lei mi dica in che cosa si concretizza questo, se non in un aspetto protezionistico. Oppure, se lei vuole tirare un metro di fibra, sì, lei deve pagare un contributo amministrativo, a fronte al quale lei non riceve niente, minimo annuale di 27.750 euro. A cosa serve questo se non a creare barriere di ingresso a chi vuole intraprendere? Quindi, la ringrazio, nel tecnico e nello specifico delle due cose che lei ha citato non le so rispondere. Certamente in alcuni casi ci vogliono alcune garanzie naturalmente per poter entrare in un business, ciò non toglie che certe volte queste garanzie siano eccessive e si configurino come veri e propri paletti all'inizio e all'intrapresa di un'attività economica. Ci sentiamo domani 18:30 alla Zanzara, ciao. Radio 24, la passione si sente.